Alla fine il frumento aveva reso solo 10 stai all'acro e siccome si vendeva a 50 centesimi lo staio, non ne avevano cavato granché. Il tempo era stato troppo secco e il prezzo era sceso. Ma l'avena aveva reso abbastanza perché ne avessero per dare da mangiare ai cavalli con qualcosina d'avanzo. E poi c'era il fieno, ammassato in grossi pagliai, ne avevano per le bestie e anche un po' da vendere. Melli era pieno di ottimismo e faceva progetti per l'anno successivo. Gli premeva cominciare subito l'aratura di autunno per avere tempo poi di dissodare altro terreno così da raddoppiare i campi, o più che raddoppiarli, se ce la faceva. Il frumento da seminare lo aveva immagazzinato nella baracca sulla sua concessione, perché lì dove abitavano, sull'otto a bosco, non c'era granaio. Tutto il resto lo aveva venduto. Erano giorni pieni. Felici, Melli cominciava ad arare fin dall'alba e Laura aveva un grande affare a cucinare, fare il pane, il burro, spazzare, lavare, stirare, rammendare, fare il bucato e stirare erano lavori faticosi per lei, così magra e piccolina. Ma aveva le mani forti, anche se minute, i polsi robusti e ce la faceva. Il pomeriggio metteva un abito pulito e andava a sedersi nell'angolo del salotto a cucire o a lavorare a maglia. La domenica andavano a spasso in calesse e mentre i cavalli trottavano allegramente sulle strade della prateria, Laura e Melli cantavano le vecchie canzoni della scuola di canto. Quella che preferivano era «Non lasciate la campagna, ragazzi». Delle miniere d'Australia si fa un gran parlare, ma l'oro è anche qui, nella terra. Restate, ragazzi, che basta arare. Non aver fretta di partire, non aver fretta di partire, qui in campagna conviene restare, non aver fretta di partire. E Laura pensava al frumento d'oro stipato nella baracca della concessione e aveva il cuore leggero. Facevano gite brevi perché Skip e Barnum, i due agili bai, erano provati dal lavoro di aratura. Melly disse che non ce l'avrebbero fatta di sodare tanta terra vergine. E un giorno tornò dal paese con due robusti cavalli da tiro attaccati dietro il carro. Trainavano un grosso aratro montato su ruote col seggiolino. A quell'aratro, disse Melli, poteva attaccare tutti e quattro i cavalli e allora sì che ne avrebbe dissodata di terra per la semina dell'anno successivo. Era stato un affare l'acquisto di quei cavalli perché il proprietario aveva fretta di venderli. Aveva ceduto i diritti sulla sua concessione a un tizio che era arrivato dall'est e voleva trasferirsi più a ovest, dove era ancora disponibile terra del governo. L'aratro era costato 53 dollari, ma Melli ne aveva versati solo la metà, impegnandosi a pagare il resto l'anno successivo. Quella macchina era in grado di tracciare solchi larghi 16 pollici nella coriacea erba della prateria e si sarebbe ripagata da sé, con tutto il terreno in più che lui avrebbe potuto dissodare, considerato che ci poteva stare seduto sopra, invece di andare avanti e indietro a piedi, dietro alle bestie come l'aratro vecchio, che tra l'altro era molto più stretto. Da quel giorno Laura prese a uscire anche lei la mattina all'alba per aiutarlo ad attaccare i quattro cavalli all'aratro nuovo. Imparò a guidarli e a manovrare la macchina, a volte era lei che faceva su e giù per il campo. Era un gran divertimento. Un'altra volta, non molto tempo dopo, Melly tornò dal paese con una cavallina color grigio o ferro attaccata dietro al carro. «È per te», disse a Laura. «Ti divertirai e non voglio più sentir dire che tuo padre non ti ha mai lasciato imparare a montare. È molto docile, non ti farà del male». Laura la guardò e se ne innamorò subito. «La chiamerò Trixie», disse. La cavallina aveva i piedi piccoli, le zampe sottili e diritte. La testa era minuta, con una bella macchia bianca sul muso e orecchie vigili e appuntite. Gli occhi erano grandi, dolci e vivaci. La coda e la criniera lunghe e folte. Quella sera dopo cena, Laura scelse la sella, studiando figure e descrizioni del catalogo di vendita per corrispondenza di Montgomery Ward e compilò il modulo per ordinarla via posta la prima volta che fossero andati in paese. Non vedeva l'ora che arrivasse. Ci volevano 2 settimane di tempo che dedicò a fare amicizia con Trixie. Era una bella sella di cuoio marrone chiaro, con solide impunture e finiture in nickel. «E ora», disse Melly, «selliamo Trixie e imparerete insieme. Vedrai che starà buona, anche se non è mai stata montata. Meglio però tenerla sul terreno arato. Lì fa più fatica a muoversi, perciò starà più tranquilla e tu se cadi trovi più morbido». Quando Laura fu saldamente in sella, il piede sinistro infilato nella staffa, la gamba destra ben ancorata al corno della sella, Melly le lasciò le briglie e loro due, lei e Trixie, se ne andarono insieme per il campo. Trixie fece del suo meglio per comportarsi bene, anche se la spaventava la gonna di Laura che sbatteva al vento. Laura non cadde e col passare dei giorni loro due impararono a cavalcare insieme. Era ormai autunno avanzato. Di notte brinava e presto il terreno sarebbe gelato. L'aratura dei 50 acri di terra nuova era quasi terminata. Non c'erano più gite domenicali. Skip e Barnum erano troppo affaticati dal lavoro nei campi e avevano bisogno di un giorno di riposo. Facevano invece lunghe cavalcate, perché anche Melly aveva un cavallo da sella. E siccome non avevano altro da fare, Fly e Trix erano sempre pronti ad andare. Laura e Trixie avevano imparato insieme a trottare e a galoppare. Dal bordo della carareccia superavano d'un balzo il solco delle ruote e atterravano sulla soffice striscia d'erba centrale. Saltavano l'altro solco e via per i campi. Trixie posava con tanta delicatezza sulle zampe snelle che non c'erano scossoni di sorta. Un giorno, mentre se ne andavano al piccolo galoppo per una strada della prateria, Melly disse: "Eh sì, Trixie è agile e veloce, ma Fly è in grado di seminarla." E partì di gran carriera. Laura si piegò sul collo della cavallina, la toccò col frustino e lanciò la sua migliore imitazione di un grido da cowboy. Trixie schizzò via come un fulmine, lasciando indietro Fly. Alla fine Laura la fermò e attese, ansante, che Melly la raggiungesse, e quando lui protestò per quella corsa forsennata, rispose distrattamente: "Oh, ma Trixie mi ha detto che se l'è presa proprio comoda." Da quel giorno Trixie dimostrò spesso di essere la più veloce, a volte anche quando uscivano prima di colazione per una galoppata di una ventina di miglia. Erano giorni spensierati, felici, perché due persone bene affiatate possono fare la vita che vogliono. A dire la verità, ogni tanto Laura pensava alla scarsità del raccolto di quell'anno e si chiedeva come avrebbero tirato avanti. Una volta mise perfino da parte della panna e mandò a vendere in paese un vaso di burro fresco, con l'idea di contribuire così a pagare il conto della drogheria. Al burro aveva aggiunto 5 dozzine di uova, perché le galline, che razzolavano intorno al fienile e ai pagliai e nei campi, ne deponevano in quantità. Ma Melly portò indietro il burro. Non aveva trovato una sola bottega in paese che lo acquistasse, neppure a un prezzo molto basso. Per le uova era riuscito a spuntare solo 5 miseri centesimi la dozzina. In quel modo c'era poco da sperare di contribuire alle spese. Ma perché preoccuparsi? Melly non si preoccupava. Quando i campi furono dissodati, ci fu da sistemare il fienile dietro casa per l'inverno, ammassarono tutto il fieno lungo i lati della struttura in modo da poterci ricoverare dentro le bestie. Là sarebbero state al caldo. Coprirono anche il tetto con uno strato di fieno alto 4 piedi ai lati, e un po' di più sul colmo, perché l'inclinazione assicurasse lo scorrimento dell'acqua. Con il seghetto da fieno, Manly aveva ritagliato 2 buchi nella parete rivolta a sud, poi li aveva chiusi dall'interno con un vetro, perché le bestie avessero luce anche quando la porta era chiusa. Sistemato il fienile, venne il momento di uccidere il maiale, ma Ole Larsen, che abitava al di là della strada, li anticipò. Il signor Larsen chiedeva continuamente cose in prestito. Era causa di disaccordo tra Laura e Melly, perché Laura aveva da ridire sul fatto che attrezzi e macchine venissero usati da altri, che poi magari li rompevano o non li restituivano. Quando Melly doveva andare fino in fondo ai campi di Ole Larsen a riprendersi un attrezzo che avrebbe dovuto essere nel suo granaio, Laura si arrabbiava, ma Melly diceva che bisogna mantenere buoni rapporti coi vicini. Così, quando Larsen venne a chiedere se poteva prendere in prestito il mastello per immergere il maiale nell'acqua bollente, Laura disse di sì. Melly era in paese, ma lei sapeva che sarebbe stato d'accordo. Poco dopo Larsen tornò a chiedere il bollitore grande per scaldare l'acqua in cui immergere il maiale. Poi tornò a prendere in prestito i coltelli per macellare, poco dopo la cote per affilarli. Tanto valeva, pensava Laura seccata, che venisse a chiedere il loro maiale da ammazzare. Ma almeno quello lo aveva. Con tutto ciò, Larsen non portò in dono neppure un pezzo di carne fresca, come si usa tra buoni vicini. Qualche giorno dopo fu Melly a macellare il loro grasso maiale e per la prima volta in vita sua Laura si trovò a dover fare da sola salsicce, testa in cassetta e vasi di lardo. Cosce, spalle e costine vennero congelate nel ripostiglio freddo, le parti più grasse invece furono messe sotto sale in un barilotto. Doversi arrangiare da sole era molto diverso dall'aiutare mamma, ma era parte dei suoi compiti e Laura fece tutto quello che doveva, anche se la nauseava l'odore del lardo bollente e la disgustava vedere tanta carne fresca ammassata. Fu intorno a quell'epoca che i dirigenti della scuola le pagarono l'ultimo stipendio da maestra che ancora le dovevano. Con quel denaro a disposizione le parve di essere ricca e cominciò a pensare che farne. Melly disse che se comprava un puledro avrebbe potuto rivenderlo al doppio quando fosse cresciuto. Decise dunque di impiegare così quel denaro e Melly acquistò un baio di 2 anni che prometteva bene. Laura non si prese la briga di dargli un nome. Lo allevavano per rivenderlo, dunque a che serviva? Ma lo nutrivano bene, lo strigliavano e lo accudivano perché crescesse robusto. Un giorno tempestoso, Melly andò in paese di buon'ora lasciando Laura a casa da sola. Lei ci era abituata e non ci badò, ma siccome soffiava un vento freddo e impetuoso, lasciò chiusa a chiave, come era dalla sera prima, la porta d'ingresso. A metà mattina, mentre sbrigava le faccende, lanciando un'occhiata fuori dalla finestra, vide venire da sud-est un gruppetto di uomini a cavallo. Chissà come mai, si disse, non avevano preso la strada. Quando furono più vicini, vide che erano cinque ed erano indiani. Le era capitato spesso di vedere degli indiani e non ne aveva avuto mai paura, ma quel giorno si spaventò perché quelli puntavano direttamente sulla casa. Quando furono lì, cercarono di aprire la porta senza bussare. Per fortuna era chiusa a chiave. Laura accorse nel ripostiglio e sbarrò anche la porta sul retro. Gli indiani fecero il giro della casa e cercarono di aprire da quella parte. Poi, sbirciando dalla finestra, videro Laura all'interno e le fecero segno che aprisse. Non le avrebbero fatto del male, ma Laura scosse la testa gridando che se ne andassero. Era probabile che volessero solo qualcosa da mangiare, ma non si poteva mai dire. Solo 3 anni prima, non molto più a ovest di lì, gli indiani erano stati quasi sul punto di scendere sul sentiero di guerra e capitava ancora che attaccassero i cantieri della ferrovia. Per questo aveva deciso di non aprire. Li vide confabulare. Non riusciva a sentire cosa dicevano, ma era spaventata. C'era qualcosa di strano nel loro comportamento. Perché non se ne andavano? Poi li vide avviarsi verso il fienile. C'era la sua bella sella appesa là dentro e Trixie, la sua cavallina, la sua compagna. Era spaventata, sapeva di essere relativamente al sicuro in casa perché non era probabile che gli indiani cercassero di forzare la porta. Ora però era anche furibonda e come suo solito agì d'impulso. Spalancò la porta, corse al fienile e fermandosi sulla soglia gridò agli indiani che uscissero immediatamente. Uno stava palpando la sua bella sella, un altro era entrato nel box di Trixie, anche Trixie era spaventata. Non le piaceva avere a che fare con estranei, era lì che strattonava la cavezza e tremava tutta. Gli altri indiani stavano esaminando la sella di Melly e i finimenti del calesse con le loro scintillanti decorazioni di nickel, ma a quel punto le vennero tutti attorno lì davanti alla porta. Lei si mise a gridare, a pestare i piedi. Era uscita di corsa senza la cuffia in testa e il vento le scompigliava le lunghe trecce castane. Gli occhi mandavano lampi, come sempre quando si arrabbiava davvero. Gli indiani la osservarono per un istante, poi uno borbottò una parola incomprensibile e le posò una mano sul braccio. Rapida come il lampo, lei gli mollò uno schiaffo in faccia con tutte le sue forze. Quello si arrabbiò e fece per saltarle addosso, ma i suoi compagni scoppiarono a ridere e uno, che pareva il capo, lo fermò. Poi, indicando se stesso e il suo cavallo, con un grande gesto del braccio, puntò il dito verso ovest, dicendo: Tu venire me, mia squaw. Laura scosse la testa e, pestando di nuovo i piedi, fece segno che montassero a cavallo e se ne andassero. E quelli se ne andarono. Cavalcavano a pelo, senza sella né redini. Ma mentre si allontanavano, il capo si voltò ancora a guardarla. Laura rimase lì sulla porta con le gonne che sbattevano al vento e le trecce svolazzanti finché li vide sparire all'orizzonte. Cominciarono a passare le oche selvatiche. Nell'arco di pochi giorni il cielo si riempì di stormi in formazione e a V che volavano verso sud con la capobranco che chiamava e le altre che rispondevano. Sì, che il cielo intero pareva tutto un risuonare di richiami. Le si sentiva passare perfino di notte, al buio, stormi innumerevoli che veleggiavano lassù in fuga dal gelo del nord. A Laura piaceva guardarle passare là in alto contro l'azzurro del cielo. C'erano vie grandi e vie piccole, ognuna con la sua capofila al vertice e tutte le altre dietro in perfetto ordine. Le piaceva sentire il loro richiamo, forte e chiaro. C'era qualcosa di selvaggio e di libero in quel grido, specie di notte quando risuonava nel buio, solitario, interminabile. Oh, se avesse avuto le ali anche lei, come avrebbe desiderato andare con loro. Melly osservò: "I vecchi dicevano che tutto va per il verso giusto quando senti chiamare le oche. Ma io credo che ci aspetti un inverno duro, perché volano alte e vanno in fretta, non scendono sui laghi a riposare, neppure a mangiare, stanno fuggendo dal maltempo." Le oche passarono per giorni, poi un mite pomeriggio di sole apparve sull'orizzonte a nord-ovest, una sottile striscia scura. Salì velocissima, invadendo il cielo, finché a un tratto sparì anche il sole, il vento piombò, ruggendo sulla prateria e il mondo scomparve in un turbinio bianco. Laura era sola in casa quando la prima raffica investì l'angolo a nord-ovest con una violenza tale da scuotere tutto l'edificio. Corse alla finestra, ma fuori non si vedeva che un muro bianco. Melly invece era nel fienile e all'urlo improvviso del vento anche lui alzò gli occhi a guardar fuori. Benché fosse ancora presto, riempì le mangiatoie delle bestie per la notte, munse la vacca nel secchiello che aveva usato per portare del sale e, assicurandosi di aver chiuso bene la porta, si diresse a casa. Ma come uscì dal riparo del muro, la tempesta gli fu addosso. Sembrava che le raffiche venissero contemporaneamente da tutte le direzioni, da qualunque parte si girava aveva il vento contro. Sapeva dov'era la casa, ma non vedeva nulla. La temperatura era scesa drasticamente, il vento portava un minuto pulviscolo ghiacciato che gli entrava nel naso e nelle orecchie e lo soffocava quando apriva la bocca per respirare. Fatti un paio di passi, non vide più neppure il fienile, era solo in mezzo a un turbinante universo bianco. Andò avanti alla cieca, cercando di tenere la faccia nella direzione giusta. A un certo punto capì che avrebbe dovuto essere arrivato, anche se intorno non vedeva nulla. Fatti ancora un paio di passi, andò a sbattere contro un vecchio carro che aveva lasciato a una certa distanza dalla casa. Così si rese conto che suo malgrado era stato spinto più a sud di quanto credeva, ma ora se non altro sapeva dov'era. Riprese la direzione giusta e avanzò un altro tratto, e di nuovo gli parve che avrebbe dovuto essere alla casa, eppure la casa non la vedeva. Il rischio era che si confondesse fino a perdere del tutto l'orientamento e che finisse a vagare per la prateria senza sapere dov'era, o che morisse assiderato, magari a pochi passi dalla porta. Inutile anche urlare, nel frastuono del vento era impossibile farsi sentire. Tanto valeva continuare a camminare, che stare lì impalato non serviva a nulla. Fece ancora un paio di passi e sfiorò qualcosa con la spalla. Allungò il braccio e sentì sotto le dita lo spigolo di un muro. La casa! Stava per mancarla! Guai se fosse finito nella prateria! A tentoni, tenendo la mano sul muro, arrivò alla porta. Come aprì, la furia del vento lo sbatté dentro, barcollante e accecato. Stette lì qualche istante, frastornato, ad assaporare la quiete e il calore della stanza. Aveva ancora in mano il secchiello del latte. Nella bufera là fuori non ne aveva versato neppure una goccia, perché il latte era diventato un unico blocco di ghiaccio. La tempesta imperversò per 3 giorni e 3 notti. Quando fu il momento di uscire per andare ad accudire le bestie, Melly seguì il muro della casa fino all'angolo dove era fissato il filo da stendere e, tenendosi al filo, raggiunse l'altro capo sul retro, lo staccò, tornò indietro, sempre seguendo il muro, e legò il filo alla maniglia della porta. Poi giuntò al capo libero un altro filo da stendere più corto che a volte usavano nel ripostiglio e così, srotolando la matassa, riuscì ad arrivare al fienile. Fissò alla porta il capo libero della corda. Ora aveva un mancorrente per andare e venire anche nella bufera e in quel modo poté uscire una volta al giorno per andare nella stalla. Perdurò il maltempo e Laura e Melly se ne stettero chiusi in casa. Tenevano accesa la stufa grazie alla riserva di carbone che avevano nel ripostiglio e Laura cucinava attingendo alle scorte nella dispensa in cantina. Il pomeriggio lavorava Maglia cantando e il vecchio Shep e il gatto ronfavano fianco a fianco sul tappeto davanti alla stufa. La casa era solida e calda e si stava bene lì al riparo mentre fuori ruggiva la bufera. La tempesta cessò nel tardo pomeriggio del quarto giorno. Il vento perse forza e folate di neve presero a correre rasoterra, andando ad accumularsi contro le asperità del terreno, finché la prateria fu tutta segnata da lunghi cumuli ghiacciati intervallati da chiazze di terreno nudo. Tornò il sole, un sole pallido e freddo, circondato da un alone di ghiaccio. Che gelo! Laura e Melli uscirono a guardare quel paesaggio desolato. Avevano ancora nelle orecchie il frastuono del vento e tanto silenzio sembrava quasi innaturale. Brutta tempesta, disse Melli. Avrà fatto un mucchio di danni. Laura guardò il fumo che usciva dal camino della casa al di là della strada. Ma dai Larsen sembra tutto a posto, disse. L'indomani Melly andò in paese a fare la spesa e a sentire le novità. Quando fu di ritorno, staccò i cavalli e passò nella stalla ad accudire le bestie per la notte. Laura gli andò incontro sulla soglia per prendergli il giaccone. La casa era calda e accogliente e dalla finestra a sud entravano gli ultimi raggi del sole calante. Ma Melly era scuro in viso e quando ebbero cenato raccontò quello che aveva sentito in paese. Un colono che abitava più a sud, sorpreso nella stalla dalla tempesta come era successo a lui, non era riuscito a rientrare in casa e lo avevano trovato assiderato nella prateria quando era cessata la bufera. Tre bambini si erano persi tornando da scuola, ma avevano trovato un pagliaio e ci si erano infilati dentro. Erano rimasti lì abbracciati, stretti, per tenersi caldi. La neve si era mucchiata tutto intorno e quando il vento era cessato, il più grande era riuscito a scavare un buco e a uscire fuori. Così li avevano trovati i soccorritori. Erano sfiniti dalla fame, ma se l'erano cavata. La bufera aveva spinto verso sud le mandrie e brade che pascolavano nella prateria. Accecati e storditi, gli animali erano precipitati uno sull'altro dalla ripa scoscesa del Cottonwood River, spaccando il ghiaccio del fiume col loro peso e restando impantanati a dibattersi nell'acqua e nella neve finché erano morti affogati o assiderati. Ora li stavano tirando fuori e li scuoiavano lì per lì almeno per salvare le pelli. Chi aveva perso dei capi poteva andare a reclamare le carcasse se riconosceva le sue bestie dal marchio. Una tempesta di quella entità era inusuale per la stagione, sicché molti erano stati sorpresi fuori dal maltempo e avevano riportato congelamenti ai piedi e alle mani. A breve ne giunse un'altra, ma la gente ormai era preparata e non vi furono danni. Faceva troppo freddo per le cavalcate e siccome il terreno era coperto di neve, la domenica pomeriggio Melly attaccava la pariglia alla sua piccola slitta da diporto e andavano a trovare la famiglia di Laura, oppure i Bost, vecchi amici che abitavano qualche miglio più a est. Ma erano gite brevi, non si potevano più percorrere 30 o 40 miglia in una giornata. Era troppo pericoloso perché poteva sopravvenire una tempesta improvvisa e sorprenderli lungo la via. Barnum e Skip non lavoravano più nei campi, erano ben pasciuti e pieni di energia e si divertivano a correre per la prateria innevata, tanto quanto Laura e Melly. Saltellavano e danzavano sulle zampe nervose, apposta per far tintinnare più allegramente i campanelli, e avevano le orecchie frementi e gli occhi brillanti. Trixie e Fly, i due cavalli da sella, e Kate e Bill, la coppia da tiro, ingrassavano nella stalla e facevano un po' di movimento giusto nel recinto protetto dai covoni dietro il fienile.